Gradirei una fetta di quel prosciutto e un bicchiere di quella birra, Miss Garth, se mi consentite. Disse entrando nel salotto alle 11:30 dopo aver goduto dell'eccezionale privilegio di vedere il vecchio Mr. Thurston e restando in piedi con la schiena rivolta al caminetto fra Mrs. Wall e Solomon. Non è necessario che usciate, lasciate che suoni il campanello. Grazie, disse Mary, ho una commissione da fare. Bene, Mr. Trumbull, siete assai favorito, disse Mrs. Whale. Cosa? Per aver visto il vecchio? Chiese il banditore, giocherellando con indifferenza con i suoi sigilli. Ah, vedete, ha sempre contato considerevolmente su di me. A questo punto strinse le labbra e aggrottò le ciglia con aria meditabonda. Si potrebbe chiedere cosa ha fatto mio fratello, disse Salomon, con un tenero tono di umiltà, in cui si permise anche il lusso dell'astuzia, dal momento che era ricco e non ne aveva bisogno. Oh, sì, chiunque può chiedere. Fece Mr. Trumbull con sarcasmo sonoro e bonario, anche se tagliente. Chiunque può interpellare, chiunque può dare alle proprie osservazioni un tono interrogativo. Proseguì con la sonorità che aumentava di pari passo con lo stile. I buoni oratori lo fanno costantemente, anche quando non si aspettano alcuna risposta. È quella che chiamiamo una figura retorica, retorica di stile, come si potrebbe dire. L'eloquente banditore sorrise della propria ingegnosità. Non mi spiacerebbe sapere che si è ricordato di voi, Mr. Trumbull, disse Solomon. Non sono mai stato contro i meritevoli. È con gli immeritevoli che me la prendo. Ah, ecco il punto, vedete, ecco il punto, disse Mr. Trumbull con aria significativa. Non si può negare che delle persone immeritevoli siano state legatari, addirittura legatari universali. Accade così con le disposizioni testamentarie. Di nuovo increspò le labbra e aggrottò un po' le ciglia. Intendete dire che siete certo, Mr. Trumbull, che mio fratello ha lasciato le sue terre a gente estranea alla famiglia? Chiese Mrs. Whale, sulla quale, in quanto donna pessimista, quelle lunghe parole avevano un effetto deprimente. Tanto varrebbe che uno lasciasse subito le sue terre un istituto di carità piuttosto che certa gente, osservò Solomon, poiché la domanda della sorella non aveva ricevuto alcuna risposta. Cosa? Terra alle giacchette azzurre, chiese di nuovo Mrs. Whale. Oh, Mr. Trumbull, non è possibile che vogliate dire questo. Sarebbe come disprezzare l'onnipotente che lo ha fatto prosperare. Mentre Mrs. Whale stava parlando, Mr. Borthrop Tremble si allontanò dal fuoco verso la finestra, passandosi l'indice tutto attorno all'interno della cravatta, poi lunghi favoriti e le ondulazioni dei capelli. A questo punto si diresse verso il tavolo da lavoro di Mr. Gert, aprì un libro che vi era posato sopra e ne lesse ad alta voce il titolo, con enfasi pomposa come se lo stesse offrendo in vendita. Anna di Gerstein, pronunciato Girstin, o La fanciulla delle nebbie, dell'autore di Waverly. Poi, voltata la pagina, cominciò con voce sonora. Sono più che trascorsi 4 secoli da quando la serie di avvenimenti riferiti nei capitoli che seguono ebbero luogo sul continente. Pronunciò l'ultima parola davvero ammirevole, con l'accento sull'ultima sillaba, non perché inconsapevole dell'uso volgare, ma perché provava la sensazione che questa dizione originale rafforzava la sonora bellezza che la sua lettera aveva conferito al tutto. E a questo punto il servitore entrò con il vassoio, di modo che il tempo per rispondere alla domanda di Mrs. Whale era passato senza correre rischi, mentre lei e Solomon, nell'osservare i movimenti di Mr. Trumbull, pensavano che un gran sapere interferiva tristemente con gli affari seri. Mr. Borthrop Trumbull in realtà non sapeva nulla del testamento del vecchio Thurston, ma ben difficilmente lo si sarebbe potuto indurre a confessare di ignorare una cosa qualsiasi, a meno che non lo si fosse arrestato per omissione di denuncia di tradimento. Prendo solo un boccone di prosciutto e un bicchiere di birra, disse in tono rassicurante. In quanto uomo con un'attività pubblica, faccio uno spuntino quando posso. Difenderò questo prosciutto, soggiunse, dopo averne ingoiato alcuni bottoni con allarmante rapidità. Contro qualsiasi prosciutto dei Tre Regni. A mio giudizio è meglio dei prosciutti di Fresh Heath Hall e credo di essere un giudice discreto. A certuni non piace tanto zucchero nel prosciutto, disse Mrs. Whale, ma mio povero fratello ci ha voluto mettere sempre lo zucchero. Se una persona qualsiasi chiede di meglio, è libera di farlo, ma che Dio mi benedica, che aroma! Sarei lieto di comprare quella qualità, lo so. Un gentiluomo prova una certa soddisfazione. E qui la voce di Mr. Trumbull dette l'idea di una protesta sentimentale e farsi portare in tavola questo genere di prosciutto. Spinse da parte il proprio piatto, si versò il bicchiere di birra e tirò un po' avanti la sedia, approfittando dell'occasione per rivolgere un'occhiata al lato interno dei pantaloni, che si accarezzò con aria di approvazione, poiché Mr. Trumbull aveva tutte queste arie e quei gesti meno frivoli che distinguono le razze superiori dell'emisfero settentrionale. Lì avete un'opera interessante, come vedo, Miss Gers, osservò quando Mary rientrò. È dell'autore di Waverley, cioè Sir Walter Scott. Anche io ho comprato una delle sue opere, una cosa molto carina, un'opera di genere superiore intitolata Ivanhoe. Non troverete nessun scrittore che lo batta facilmente, credo. Secondo me non si lascerà superare tanto in fretta. Stavo proprio leggendo poco fa una parte in anticipo di Anna di Gerstin. Principia bene. Le cose per Mr. Borrow, Trumbull non cominciavano mai, principiavano sempre, sia in privato che nei suoi volantini. Siete una lettrice, come vedo. Siete abbonata alla nostra biblioteca di Middlemarch? No, disse Mary, questo libro me l'ha portato Mr. Fredwincy. Sono un gran letterato anch'io, disse Mr. Trumbull. Possiedo non meno di 200 volumi in pelle e mi vanto che sono tutti libri scelti. Anche quadri di Murillo, Rubens, Tenier, Tiziano, Van Dyck e altri. Sarò lieto di prestarvi qualsiasi opera vi piacerà citare, Miss Garth. Vi sono molto obbligata, disse Mary correndo via di nuovo, ma ho poco tempo per leggere. Direi che mio fratello ha fatto qualcosa per lei nel testamento, disse Solomon assai a bassa voce quando essa si fu chiusa la porta alle spalle, accennando col capo verso l'assente Mary. Sua prima moglie, però, per lui non è stato un buon partito, disse Mrs. Whale. Non gli ha portato niente e questa ragazza è solo sua nipote. È molto orgogliosa e mio fratello le ha sempre pagato lo stipendio. Una ragazza di buon senso, però, a mio avviso, disse Mr. Trample, finendo la birra e balzando in piedi, mentre si aggiustava con un gesto energico il panciotto. L'ho osservata mentre mescolava la medicina in gocce. Sta attenta a quello che fa, signori miei. Questo è un gran vantaggio in una donna, è un gran vantaggio per il nostro amico di sopra, povera cara vecchia anima. Uno che ci tenga un minimo alla propria vita dovrebbe considerare la moglie un'infermiera, così farei io se mi sposassi, e credo di essere vissuto da scapola abbastanza lungo per non sbagliarmi in questo campo. Certuni devono sposarsi per elevare un po' le loro condizioni, ma quando io avrò bisogno di una cosa simile, spero che qualcuno me lo dica, spero che qualche individuo mi informi della cosa. Vi auguro buongiorno, Mrs. Whale. Buongiorno, Mr. Solomon. Confido che ci possiamo incontrare sotto auspici meno malinconici. Quando Mr. Trumbull si fu congedato con un bell'inchino, Solomon, chinatosi in avanti, osservò rivolto alla sorella: Puoi star sicura, Jane, che mio fratello ha lasciato a quella ragazza un bel malloppo. Chiunque lo penserebbe dal modo in cui parla Mr. Trumbull, disse Jane. Poi, dopo un attimo di pausa, Parla come se delle figlie non ci si potesse fidare per dare delle gocce. I banditori parlano a sproposito, disse Solomon, il che non significa che questo Mr. Trumbull non abbia fatto dei soldi. Capitolo 33. Quella sera, dopo mezzanotte, Mary Gertz diede il cambio per vegliare nella stanza di Mr. Thurston e rimase lì seduta da sola fino alle prime ore del mattino. Si assumeva spesso questa incombenza, che le dava un certo piacere, nonostante l'irritabilità del vecchio ogni qualvolta esigeva le sue attenzioni. Vi erano intervalli in cui poteva sedere perfettamente immobile, assaporando l'immobilità esterna e la luce fioca. Il fuoco rosseggiante, con i suoi movimenti appena percepibili, sembrava una solenne esistenza, tranquillamente immune dalle meschine passioni, desideri stupidi, la sollecitazione per cose incerte e indegne che quotidianamente suscitavano il suo disprezzo. A Mary erano cari i propri pensieri e poteva gioirne assai seduta nella penombra con le mani in grembo, perché avendo avuto fin da principio forti motivi per credere che le cose non si sarebbero sistemate in modo particolarmente soddisfacente per lei, non perse tempo a restare stupita e irritata del fatto. Ed era già arrivata a prendere la vita per lo più come una commedia in cui essa aveva preso l'orgogliosa, anzi la generosa risoluzione di non recitare la parte di una persona meschina o traditrice. Mary sarebbe potuta diventare cinica se non avesse avuto dei genitori che onorava e una fonte di gratitudine affettuosa dentro di sé, che era tanto più abbondante in quanto aveva appreso a non pretendere cose irragionevoli. Quella notte sedeva, come il suo solito, rimuginando sugli avvenimenti della giornata, con le labbra che spesso si piegavano divertite dalla stranezza che la sua fantasia arricchiva di una nuova comicità. Le persone erano così ridicole con le loro illusioni, portando addosso senza accorgersene i loro berretti da buffoni, pensando che le loro menzogne fossero opache mentre quelle di chiunque altro erano trasparenti, facendo di se stesse delle eccezioni a tutto, come se quando tutto il mondo appariva giallo sotto una lampada, loro soltanto fossero rose. Eppure sotto gli occhi di Mary vi erano delle illusioni che per lei non erano proprio comiche. Era segretamente convinta, sebbene non avesse altre prove, che la sua attenta osservazione della natura del vecchio Thurston, che nonostante egli gradisse avere Vincy attorno, era probabile che questi sarebbero rimasti delusi come uno qualsiasi dei parenti che teneva a distanza. Provava molto sdegno per l'evidente paura di Mrs. Vincy di vederla restare sola con Fred, ma ciò non le impediva di pensare con ansia a come Fred sarebbe rimasto colpito se si fosse scoperto che lo zio aveva lasciato povero come sempre. Poteva fare di Fred oggetto di scherno quando era presente, ma non gioiva delle sue follie quando era assente. Eppure i propri pensieri le piacevano. Una giovane mente vigorosa, non sbilanciata dalla passione, trova bello fare conoscenze con la vita e osserva le proprie capacità con interesse. Mary in cuore aveva tanta allegria. Il suo pensiero non era venato da alcuna solennità o pathos per il vecchio a letto. Tali sentimenti è più facile fingerli che provarli veramente per una persona piena di anni la cui vita visibilmente non è altro che una feccia di vizi. Essa aveva sempre visto il lato più gradevole di Mr. Thurston, egli non era orgoglioso di lei, che gli era soltanto utile. Provare pena per un'anima che vi parla sempre con asprezza è cosa che deve essere lasciata ai santi della terra, e Mary non faceva parte di costoro. Lei non gli aveva mai ribattuto con una parola dura e lo aveva servito fedelmente, era il massimo che potesse fare. Il vecchio Thurston stesso non era minimamente in ansia per la propria anima e aveva rifiutato di ricevere Mr. Tucker per parlare dell'argomento. Quella notte non era sbottato neppure una volta e per il primo paio di ore egli giacque quasi assolutamente immobile, finché Mary lo udì infine sbatacchiare il suo mazzo di chiavi contro la scatola di latta che teneva sempre nel letto accanto a sé. Verso le 3 disse con chiarezza notevole: «Signorinella, vieni qui». Mary obbedì. E vide che aveva già tirato fuori da sotto le coperte la scatola di latta, sebbene di solito chiedesse a lei di fare questo per lui, e aveva trovato la chiave. Ora aprì la scatola e, trattane un'altra chiave, la guardò fisso con occhi che sembravano aver recuperato tutto il loro sguardo penetrante e chiese: «Quanti di loro sono in casa? Intendete parlare dei vostri parenti, signore?» disse Mary, ben abituata al modo di parlare del vecchio. Egli fece un breve cenno col capo ed essa proseguì. Mister Jonah Thurston e il giovane Crunch dormono qui. Ah, già, loro non mollano, eh? E il resto vengono ogni giorno, ci scommetto, Solomon e Jane e tutti i giovani? Vengono a sbirciare, a contare, a sommare? Non tutti quanti ogni giorno. Mister Solomon e Mrs. Whale sono qui tutti i giorni e gli altri vengono spesso. Il vecchio ascoltò con un ghigno mentre lei parlava e poi, rilassati i muscoli della faccia, disse: «A maggior ragione sono stupidi. Ascolta, signorinella, sono le 3 del mattino e sono padrone di tutte le mie facoltà mentali come non mai in vita mia. Conosco tutte le mie proprietà e so che in banca è il denaro e tutto quanto. E ho preparato tutto per cambiare idea e alla fine fare come mi pare. Mi senti, signorinella? Sono lucido». «Bene, signore», disse Mary tranquilla. A questo punto egli abbassò il tono della voce con un'aria di maggiore astuzia. «Ho fatto 2 testamenti e ho intenzione di bruciarne uno. Adesso fa come ti dico. Questa è la chiave del mio cassone di ferro, là, nello sgabuzzino. Spingi bene di lato la placca di ottone in cima, finché non si aprirà come un catenaccio. Allora potrai introdurre la chiave nella serratura davanti e girarla. Vedi di fare così. Tira fuori la carta in cima. Ultime volontà, stampato in grande». «No, signore», disse Mary con voce ferma, «non posso farlo». «Non puoi farlo? Te lo ordino, devi farlo». disse il vecchio, mentre la sua voce cominciava a tremare sotto la sorpresa di questa resistenza. Io non posso toccare né il vostro cassone di ferro né il vostro testamento. Devo rifiutarmi di fare qualsiasi cosa che potrebbe far cadere dei sospetti su di me. Ti dico che sono sano di mente. Non posso fare come mi pare alla fine? Ho fatto due testamenti apposta. Prendi la chiave, ti dico. No, signore, non lo farò, disse Mary in tono ancora più risoluto. Il suo disgusto stava aumentando. Ti dico che non c'è tempo da perdere. Non posso farci niente, signore. Non lascerò che la fine della vostra vita macchi l'inizio della mia. Non toccherò né il cassone di ferro né il testamento. Si allontanò un poco dal letto. Il vecchio tacque per un po', con uno sguardo vuoto, tenendo un'unica chiave ritta sull'anello. Poi, con uno strattone agitato, cominciò a svuotare la scatola di stagno di fronte a lui con l'ossuta mano sinistra. Signorinella, cominciò a dire in fretta, guarda qui, prendi i soldi, le banconote e l'oro. Guarda qui, prendilo, l'avrai tutto, fa come ti dico. Fece uno sforzo per allungarle la chiave più che poteva e Mary di nuovo si ritrasse. Non toccherò né la vostra chiave né il vostro denaro, signore. Vi prego, non chiedetemi ancora di farlo. Se me lo chiederete, dovrò andare a chiamare vostro fratello. Egli lasciò cadere la mano e per la prima volta in vita sua, Mary vide il vecchio Peter Thurston cominciare a piangere come un bambino. Lei disse, col tono più gentile che era in grado di usare, vi prego, mettetevi i vostri soldi, signore. E poi se ne andò alla sua poltrona, presso il fuoco, nella speranza che ciò contribuisse a convincerlo che era inutile dire altro. Ben presto, egli si riprese e disse con impazienza: Vieni qui allora, chiama il giovanotto, chiama Fred Vincy. A Mary il cuore cominciò a pulsare più rapidamente. Varie idee le passarono per il capo su quelle che potevano essere le conseguenze di bruciare un secondo testamento. Doveva prendere in fretta una decisione difficile. Lo chiamerò se mi lascerete chiamare Jonah e altri assieme a lui. Nessun altro, ti dico, il giovanotto. Farò come mi pare. Aspettate finché non sarà giorno pieno, signore, quando tutti saranno alzati. Oppure lasciate che chiami Simmons adesso, perché vado a chiamare l'avvocato. Può essere qui in meno di 2 ore. L'avvocato? Cosa da spartire con l'avvocato? Nessuno lo deve sapere. Dico, nessuno lo deve sapere. Farò come mi pare. Lasciate che chiami qualcun altro, signore, disse Mary in tono persuasivo. La sua posizione non le piaceva, sola, col vecchio, che sembrava mostrare una strana fiammata di energia nervosa, che gli consentiva di parlare più e più volte senza essere preso dal consueto attacco di tosse. Eppure non voleva insistere più del necessario nell'opposizione che lo agitava. Vi prego, lasciate che chiami qualcun altro. Lasciatemi stare, ti dico. Ascolta, signorinella, prendi i soldi. Non ti capiterà più l'occasione. Sono quasi 200 sterline buone. Ce ne sono delle altre nella scatola e nessuno sa quante ce n'erano. Prendile e fa come ti dico. Mary, in piedi presso il focolare, vide la sua luce rossa cadere sul vecchio, appoggiato ai suoi cuscini, con la mano ossuta che le porgeva la chiave e il denaro sparso sulla trapunta davanti a lui. Non si scordò mai di quella visione di un uomo che voleva fare come gli pareva alla fine, ma il modo in cui le aveva offerto il denaro la spinse a parlare con maggiore risolutezza che mai. È inutile, signore, non lo farò. Mettete via i vostri soldi. Non li toccherò i vostri soldi, farò qualsiasi altra cosa per confortarvi, ma non toccherò le vostre chiavi e i vostri soldi. Qualsiasi altra cosa? Qualsiasi altra cosa, fece il vecchio Thurston, con ira rauca, che come in un incubo cercava di essere sonora, eppure era appena percettibile. Io non voglio nient'altro. Vieni qui, vieni qui! Mary gli si avvicinò cautamente, perché lo conosceva troppo bene. Vide che lasciava cadere le chiavi e cercava di afferrare il bastone mentre la guardava come una vecchia iena, i muscoli della faccia contorti per lo sforzo della mano. Lei si fermò a una distanza sicura. Lasciate che vi dia un po' di cordiale, disse con calma, e cercate di calmarvi. Forse vi addormenterete e domani, alla luce del sole, potrete fare come vi pare. Egli sollevò il bastone e, sebbene non potesse raggiungerla, glielo scagliò con uno sforzo faticoso che non era che pura impotenza. Il bastone cadde scivolando oltre i piedi del letto. Mary lo lasciò dov'era e si ritirò nella sua poltrona presso il fuoco. Di lì a poco sarebbe andata da lui col cordiale. La fatica lo avrebbe reso passivo. Si stava avvicinando il momento più freddo del mattino. Il fuoco si era quasi esaurito e lei vedeva attraverso la fessura delle tende, marezzate della finestra, la luce imbiancata dalla persiana. Dopo aver messo un po' di legna sul fuoco ed essersi gettata addosso uno scialle, si sedette, sperando che Mr. Fairstone ora prendesse sonno. Se gli si fosse avvicinata, avrebbe continuato a restare irritato. Egli non aveva detto nulla dopo aver scagliato il bastone, ma lo aveva visto prendere di nuovo le chiavi e posare la mano destra sul denaro. Però non lo mise via e lei pensò che fosse piombato nel sonno. Mary, tuttavia, cominciò ad essere agitata dal ricordo di ciò che le era capitato più di quanto lo fosse stata dalla realtà, dubitando di quei suoi atti che aveva compiuto come degli imperativi e avevano escluso ogni titubanza al momento critico. Ben presto, dal legno secco sprizzò una fiamma che illuminò ogni crepa. E Mary vide che il vecchio era steso tranquillamente con la testa voltata un po' di lato. Gli si avvicinò con passi silenziosissimi e le parve che quella faccia sembrasse stranamente immobile. Un attimo dopo il movimento della fiamma che si comunicò ad ogni oggetto la rese incerta. Il tumulto del suo cuore le rendeva le percezioni così dubbie che anche quando lo toccò e restò in ascolto del suo respiro non le riuscì di fidarsi delle proprie conclusioni. Andò alla finestra e scansò dolcemente la tendina e la persiana, di modo che la luce ferma del cielo cadde sul letto. Un attimo dopo corse al campanello e lo suonò con violenza. Dopo pochissimo tempo non ci fu più alcun dubbio che Peter Fairstone fosse morto. Con la mano destra che stringeva le chiavi e la sinistra posata su un mucchio di banconote e di monete d'oro.